In generale, a tutti danno fastidio le leggi. Una cosa non la devo fare, e spesso è quello che mi piace di più. E una la devo fare, e spesso è quella che mi piace di meno. Abbiamo l'opinione che le leggi limitino, condizionino, non permettano di esprimere se stessi fino in fondo. E allora ci domandiamo perché ci devono essere delle leggi in questo mondo. Non sarebbe meglio che ognuno seguisse i propri sentimenti a ruota libera senza doversi tutte le volte chiedere se una cosa è giusta o sbagliata? La legge non è forse nemica della libertà? Queste sono alcune delle domande che generalmente uno si pone e che costituivano anche per me interrogativi fino al giorno in cui ho riflettuto sul perché della legge. Ecco 7 ragioni che ho trovato per le quali è indispensabile che ci sia la legge. 1. La legge è necessaria per mantenere l'ordine. Sembrerà strano per alcuni, ma ci sono voluti secoli, anzi millenni, prima che gli scienziati si rendessero conto che il mondo è regolato da leggi. Che gli oggetti cadessero a terra tutti lo sapevano. Ma solo verso la fine del 1700 venne definitivamente concepita e formulata la legge della gravitazione universale. La tradizione vuole che mentre Isaac Newton nel 1666 soggiornava nel suo paese natio per proteggersi dalla peste che infieriva nella città, incidentalmente, una mela cadesse, destando in lui il desiderio di approfondire gli studi sulla gravità terrestre. Gli uomini a loro insaputa hanno vissuto sempre in un mondo regolato da leggi, e sono state proprio queste a far sì che egli potesse vivere assieme al regno animale, vegetale e minerale. È straordinario che la parola di Dio, già 2000 anni prima di Cristo, si riferisse alle leggi del cielo. L'Eterno chiede a Giobbe: «Puoi tu al suo tempo far apparire le costellazioni e guidare l'orsa maggiore, insieme ai suoi piccini? Conosci le leggi del cielo? Regoli il suo dominio sulla terra?» Giobbe 38:32-33. Prima ancora della comparsa dell'uomo sulla terra, Dio aveva creato le leggi perché nessuno può vivere in un mondo senza leggi. Se l'uomo fosse libero di fare quello che vuole, non si potrebbe esistere e coesistere. Se non vi fosse un codice stradale, se non vi fossero semafori, limiti di velocità, sarebbe una carneficina, anziché un sereno viaggio. Se una nazione non avesse leggi, se non avesse dei governanti riconosciuti, sarebbe anarchia, confusione, baraonda. La legge è indispensabile perché esista ogni forma di vita, fisica, sociale, religiosa. Essa è indispensabile per incoraggiare e proteggere la buona condotta e per frenare e punire la cattiva condotta. 2. La legge è necessaria per mettere in evidenza chi siamo. La prima volta che l'Eterno Dio ha dato una legge è stato nel giardino dell'Eden. Leggiamo nel libro della Genesi. E l'Eterno Dio comandò l'uomo dicendo: «Mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai». Genesi 2:16. Se l'Eterno non avesse dato una legge, non sarebbe stato possibile per l'uomo comprendere se amava il Creatore sopra ogni cosa. E anta come colui che ordina di correre. Il comando non è sbagliato in sé, ma permetterà di evidenziare coloro che sono zoppi o malati di cuore, come l'ordine di cantare evidenzierà coloro che sono stonati. Così, la legge di Dio mette in evidenza il nostro peccato, la nostra inclinazione e incapacità di fare il bene. Essa si rivela come uno strumento che rende il peccatore colpevole in quanto consapevole di non comportarsi secondo la volontà di Dio. Se commettiamo errori non prendiamocela con la legge, ma con noi stessi. Il fine della legge di Dio è quello di guidare gli uomini al pentimento e alla necessità di confidare sulla grazia e sulla misericordia di Dio. 3. La legge fu data a motivo del disordine. Quando l'Eterno Dio creò l'uomo non aveva dato dei comandamenti sociali e religiosi, e la risposta dell'uomo fu che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Genesi 6:5. Ecco perché l'Apostolo Paolo, considerando che la salvezza era per grazia mediante la fede, si chiese: «Perché dunque la legge? essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, Galati 3 e 19. Se l'uomo fosse retto, giusto, comprensivo, non vi sarebbe bisogno di leggi, come non vi sarebbe bisogno di lucchetti e catenacci se gli uomini non rubassero. Una mamma non darebbe divieti se il figlio facesse sempre quello che è giusto, così uno Stato non avrebbe prigioni o la pena di morte se i cittadini ubbidissero alle leggi da lui stabilite. Troppe leggi, sia civili che religiose, mettono in evidenza che l'uomo è per natura ribelle ad ogni regola, per cui la saggezza dell'uomo sarà quella di non ribellarsi ad essa a meno che non siano contrarie al volere di Dio e alla coscienza. 4. La legge rivela Dio e la sua volontà. La distinzione fra giusto e sbagliato non è solo un fatto di convenzione, ma ha le sue radici. Nell'essenza e nel carattere, nessuno può conoscere Dio a meno che lui non si riveli. Se l'uomo è un essere morale, se stabilisce delle giuste leggi, è perché è stato creato a immagine del suo creatore. Dio è quindi un essere morale, e la sua moralità non è astratta, ma concreta. Si sa che termini quali amore, giustizia, bontà, sono termini astratti, per cui se non vengono applicati a Dio, si rischia di rimanere nel vago, nel relativo. Dio, nel dare la sua legge, ha impedito all'uomo di cadere nel mistico, e mediante essa rivela la sua santità, perché chiunque emana leggi rivela una parte della sua personalità, della sua moralità. 5. La legge serve per delineare la liceità dei nostri sentimenti. Se l'uomo è stato creato ad immagine di Dio, può, come il suo creatore, amare, odiare, sopportare, gioire. Egli prova dei sentimenti. I nostri sentimenti possono fare tanto male quanto bene. La legge che vige oggi nella società è riassunta nel titolo del libro di Susanna Camaro, «Va dove ti porta il cuore». Sembra che l'uomo o la donna abbiano una sola regola, fare ciò che il loro cuore gli sussurra o comanda. Per questo troviamo nella società rapporti prematrimoniali, adulteri, fornicazioni, omosessualità, sodomia. Il messaggio che è lanciato dalla televisione, dai libri e nelle conversazioni è che tutti hanno il diritto di amare, intendendo con questo la libertà di soddisfare desideri illeciti della nostra natura corrotta. Sebbene l'amore sia uno dei sentimenti più forti, anch'esso è e deve essere regolato e sviluppato dentro una legge, altrimenti non si può e non si deve più chiamare amore, ma il suo nome sarà concupiscenza, cioè un desiderio illegittimo, il re dei peccati. Il sentimento dell'amore senza una legge che ne detti le regole è come un fiume senza argini, dove scorre porta solo rovina, depositando tutto il marciume che contiene. E la legge di Dio che rende leciti i nostri sentimenti. 6. La legge è uno strumento per sviluppare i nostri sentimenti nel lecito. I sentimenti dell'uomo sono corrotti, altrimenti non vi sarebbe una società così corrotta. La corruzione dell'uomo è tale che Dio è stato costretto di comandarci: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore, quindi, contrariamente a quanto si pensa, non è sempre un atto spontaneo, ma rimane nell'ambito di un comandamento. Non si può certamente obbligare nessuno a provare sentimenti amorosi per noi, come nessuno può costringerci a provarne verso altri. Perciò il comandamento di Dio di amare è rivolto alla nostra volontà e non ai nostri sentimenti, perché compiamo gesti di amore verso il prossimo, soprattutto verso i nemici. Non tutti hanno capito che vi sono due tipi di amore, quello spontaneo e quello del dovere. Spesso nella vita prevale l'amore del dovere. Secondo l'Evangelo di Matteo, al capitolo 5, il cristiano deve pregare, benedire, salutare coloro che gli sono ostili o nemici, e questo è possibile soprattutto con l'amore del dovere. Un figlio di Dio maturo è colui che obbedisce più alla legge di Dio che ai propri sentimenti. 7. La legge è stata data per condurci a Cristo. Dio non ha dato una legge civile, cerimoniale e spirituale fine a se stessa, come del resto nessun governo emana leggi solo perché siano osservate. Esse hanno uno scopo. Se in un incrocio viene messo un semaforo, è per controllare il traffico. Se un genitore vieta al bambino di non mangiare troppi dolci, è per il suo bene. Così Dio ha dato tante leggi perché l'uomo potesse conoscere il legislatore ed andare a lui, Paolo infatti disse: così la legge è stata come un precettore, insegnante, maestro, istruttore, per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede. Galati 3 e 24. Chi nella legge di Dio vede solo precetto dopo precetto, precetto dopo precetto, regola dopo regola, regola dopo regola, Isaia 28, 10, chieda a Dio che parli al suo cuore perché l'insegnante, il maestro, cioè la legge, è buona, gradita e perfetta. Romani 12, 2. Quando un uomo è stato condotto a Cristo tramite la legge, dirà con l'apostolo Giovanni: la legge è stata data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. La legge avrà così adempiuto lo scopo per cui è stata data, e il credente la osserverà per essere santo come Dio è santo. Dopo queste riflessioni, il pensiero conclusivo è che colui che non vuole o non si adegua a nessuna legge si trova ad essere come un nudista che rifiuta il vestito. Prima di tutto deve andare in un luogo separato, dove altri la pensano come lui, poi si sottomette ad un'altra legge dove nessuno deve avere un vestito. Che tu lo voglia o no, una legge devi averla. O ne abbracci una che serve per coprire la tua vergogna, o accetti l'altra che la mette in mostra. Io preferisco quella che mi copre, perché sono libero con me stesso, con gli altri, ma soprattutto con Dio. Luglio 2004, Ellero.